baby, con te ho fatto centro, centro, centro, centro, baby, con te ho fatto centro, centro, centro, centro, baby, con te ho fatto centro, centro. Amo il tuo look e il tuo accento, sì, sì. Chiedimi tutto, lo accetto, sì, sì. Non solo sesso, facciamo training intenso, ey. Spegniamo iPhone e PlayStation, ey. Meglio se levi l'extension, meglio. Slaccio il bottone e la zip, sneakers a tema col fit, la canottiera così stretta dal punto che immagino tutto. Sogno che mi tuffo nel blu dei tuoi jeans, skinny ma gonfia sei tic, nei leggings di pelle nera tipo tequilera, curve da pantera, mi piaci così, solo tu mi fai così, ti guardo e fumo ma sto già fatto. Pensa quanto sei sexy con quelli gloss, tipo quando ti infili le Jordan 4, tipo quando ti infili dentro gli shorts. Affanculo il mondo, tanto è tutto gossip. Penso ai fatti nostri, l'ho scritto su un post, l'ho scritto su un post-it, l'ho lasciato a te, ho gettato a due posti, scappa via. Baby, con me ti ho fatto centro, centro. Sei ciò che voglio di certo, mi mandi da 0 a 100. Baby, con te ho fatto centro, centro, centro, centro. Dici che con te non c'entro, con i tuoi amici del centro, no no di certo. Ma tu non c'entri con loro, c'entri con me, lo avverto. Si vede che hai il diavolo dentro e che t'hanno sporcata presto. Queste canzoni pensano che me le invento e tu ci sei sempre al centro. L'unica con cui non mento, dammi un momento fuori. Pure se piove, pure se il vento ci taglia la faccia, pure se dentro muori, invento i cori. Ti guardo fare un tiro e vorrei starti nella bocca, e ti sto addosso come un nome scritto nella roccia. Siamo una bomba atomica, siamo la vodka tonica, siamo una botta alcolica, ma senza motivo. Come la pioggia in Florida, il sole a Torbella, Monaca, ma senza morire. Baby, con te ho fatto centro, centro. Sei ciò che voglio di certo, mi mandi da 0 a 100. Baby, con te ho fatto centro.